24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui alle 7:21 minuti, 24 mattino e radio24.it, siamo in diretta fino alle 9, cari ascoltatori. Nel nostro sondaggio oggi parliamo di politica, o qualcuno dice di antipolitica, perché monta e torna la questione dei vitalizi dei parlamentari. C'è chi li vuole abolire, c'è chi ci ha provato alla Camera, c'è chi li vorrebbe abolire anche nelle regioni, come il presidente della regione Toscana. Noi vi chiediamo, secondo voi è un'iniziativa demagogica oppure no? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 e ora, come di consueto, andiamo a sfogliare i giornali in edicola. Manutencoop Facility Management, la manutenzione per i tuoi ambienti, vi presenta In Primo Piano. Martedì 26 ottobre le aperture più gettonate dai giornali sono la Fiat Fini contro Marchionne per il Sole 24 Ore, mentre l'Unità mette Marchionne vestito da primitivo, avanti Cristo, Marchionne come i padroni delle ferriere, e il Manifesto autostima con una foto di Marchionne. E poi l'altra apertura gettonata è quella sulla giustizia. Fini, rischio crisi sulla giustizia per il Corriere. Fini, sulla giustizia rischio di crisi. Titolo identico quasi su Repubblica. Rischio crisi sulla giustizia. La Stampa. E così via. Fini, giustizia, rischio crisi, il Messaggero. Insomma, si sono telefonati i titolisti dei vari quotidiani su questo tema che vedremo importante, tratteremo anche noi alle 8:20, vi ricordo, ospitando Carlo Vizzini, senatore che è presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove da oggi si riprende la discussione sul lodo Alfano, che è uno dei temi politici centrali. Io però vorrei iniziare da due segnalazioni. La prima è che nel giallo di Teleavetrana, così ormai è stata definita dallo stesso protagonista in questa lettera, è entrato anche Lino Banfi, che scrive una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, pagina 22. Un Lino Banfi che fa uno straordinario incipit riferito alla lettera di Celentano, che sapete, poi qualche giorno fa lui pretende che non venga cambiata neanche una virgola, no? Delle sue lettere. E Lino Banfi scrive al direttore De Bortoli dicendo: intanto sarei felice se questo scritto me lo pubblicassi in qualunque pagina e ti pregherei di correggermi tutti gli errori anche di punteggiatura che può fare un attoruculo che viene dall'avanspettacolo. Ma poi Lino Banfi è molto serio, dice: la cosa che più mi è saltata agli occhi, e scrivo da pugliese, è la facilità con la quale i vari protagonisti nelle varie fasi del caso si siano proposti alle telecamere e ai taccuini dei cronisti come vecchi e consumati attori. Ora, l'ingarbugliamento fa sì che ognuno di noi possa farsi in testa il proprio film in quella che è diventata una vera e propria Teleavetrana. Sta di fatto, ecco l'appello di Lino Banfi, sta di fatto che quella che ci va di mezzo è l'immagine della mia amata terra di Puglia. Per questo mi sento di chiedere a giornali e TV, oltre che agli italiani tutti, un po' più di discrezione nell'attesa che gli inquirenti con il loro lavoro facciano chiarezza. Perciò, cari ragazzi italiani, scrive proprio così Lino Banfi, e anche ragazzi stranieri che venite a visitare la Puglia, se dopo aver visto le belle città barocche, i castelli federiciani, i trulli, gli uliveti, i vigneti, il bel mare e quant'altro, volete per forza passare da Vetrana, passateci pure, ma rispettate i suoi abitanti, tra i quali c'è gente molto colta e soprattutto brave e oneste persone che giustamente cominciano a stancarsi. Così Lino Banfi è, direi, la cosa più segnalabile su Vetrana, dove oggi ancora, che oggi ancora abbonda sui giornali con le cronache. La seconda segnalazione, prima di pubblicità e meteo, è questa. Buttiglione c'è ricascato. Rocco Buttiglione, da quei satanassi di Un giorno da pecora, Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radio 2, che hanno combinato, gli hanno fatto una domanda di questo tipo: la sua ostilità politica con Nichi Vendola ha a che fare col fatto che Nichi Vendola sia gay? La risposta di Buttiglione: no, sul piano politico e sociale sono contro la discriminazione nei confronti dei gay, ma moralmente non sono d'accordo, penso che l'omosessualità sia oggettivamente sbagliata, come l'adulterio, il non pagare le tasse o il non donare soldi ai poveri. Apriti cielo, io dico c'è ricascato, sapete che lui cadde da commissario europeo, dovette dimettersi, o meglio non prese neanche l'incarico, perché sui diritti, in quel caso delle madri single, ci furono delle dichiarazioni che lo portarono a dimettersi. Ovviamente l'entourage di Buttiglione, scrive l'Unità con Federica Fantozzi a pagina 11, poi in una nota accusato: no, non ho detto esattamente questo, non ho mai paragonato l'omosessualità all'evasione fiscale, mi sono limitato nel simpatico contesto a fare un elenco vario di temi che toccano il campo della morale ma non quello della rilevanza politica. Insomma, e quei satanassi di Un giorno da pecora allora hanno diffuso l'audio. L'audio in cui il deputato centrista domanda risponde: l'omosessualità è oggettivamente sbagliata, ma ci sono tante cose moralmente sbagliate che la legge non deve perseguire, tra gli esempi appunto il non pagare le tasse. Che, peraltro, messa così sembra che non solo l'omosessualità sia sbagliata, ma che evadere le tasse non deve essere sanzionata. Insomma, per l'Unità peggio la toppa del buco. In ogni caso, la strana morale di Buttiglione sull'Unità, ma la trovate sui vari giornali: Vendola gay sbaglia come gli evasori, e questo insomma ha creato una qualche polemica. Vabbè, ci fermiamo, poi ripartiamo da politica ed economia. In primo piano. E allora la giustizia è sempre il tema politico sul tavolo che sta facendo discutere. Fini sulla giustizia, c'è rischio crisi. Ieri era a Milano, Fini a lanciare Futuro e Libertà. I riflettori sono proprio puntati su cosa? Sul lodo Alfano, come racconta Donatella Stasio a pagina 19 del Sole 24 Ore. E che cosa sul nodo Alfano? Il nodo è quello sulla reiterabilità. Ieri il ministro Alfano, da cui il nome del lodo, ha detto: non è un nodo decisivo quello della reiterabilità. Oggi è un giorno importante perché in Commissione Affari Costituzionali al Senato riprende l'iter della legge. E tra l'altro ricordo, alle 8.20 sarà nostro ospite per l'intervista il presidente della Commissione Carlo Vizzini, che è anche il relatore del provvedimento di legge. Cercheremo di capire se le indiscrezioni che pubblicano oggi La Stampa e Repubblica sul nodo della reiterabilità siano meno vere. Perché, sentite La Stampa, pronto l'escamotage sulla reiterabilità. Francesco Grignetti ne parla a pagina 3. Su questo punto, che divide molto Finiani e PDL, sembra pronto l'escamotage che potrebbe salvare la faccia a tutti. Un lodo che non preveda alcuna reiterabilità, quindi che non può essere usato due volte, come vuole Fini, ma che scatti a partire dalla prossima legislatura, cioè far partire il lodo Alfano dalla prossima legislatura, garantendo così Berlusconi che per 5 anni non avrebbe l'impaccio di processi penali se diventasse premier. Tanto, fa sapere La Stampa, per il momento c'è già la copertura dalla legge per il Cavaliere con il legittimo impedimento. Invece per Repubblica il tipo di soluzione che si starebbe escogitando è questa, l'avrebbe messa a punto proprio Carlo Vizzini, che sarà il nostro ospite alle 8.20. Il possibile compromesso è questo e ce l'ha già in tasca Vizzini, scrive Eliana Milella. La soluzione è semplice: poiché la legge costituzionale entrerà in vigore solo per un breve scorcio di questa legislatura, pochi mesi, al massimo un anno, chi ne fruisce adesso, come Berlusconi, potrà farlo una seconda volta anche nella prossima, questo in una semplice norma transitoria che regola l'entrata in vigore. Questo sarebbe il compromesso, anche se in questo caso i Finiani potrebbero mettersi di traverso. Che sulla giustizia e che sul lodo Alfano ci sia molto da discutere lo si capisce anche perché, tra l'altro, in questa commissione, attenzione, ci sono 26 membri, 13 dell'opposizione e 13 della maggioranza, quindi basta un voto a cambiare, se tutti si presentano, per carità, a cambiare il corso delle cose, tanto che sul secolo XIX l'unico senatore finiano presente nella Commissione Affari Costituzionali, Maurizio Saia, fa un'intervista a pagina 2 e dice: sì, sono l'ago della bilancia, sempre che si presentino tutti, anche lui lo dice, perché sapete, tutti ad abbaiare, ma poi quando l'aula chiude scatta la grande fuga, perché questa è una cosa straordinaria. In questa settimana la Camera non si lavora praticamente. Ebbene, Saia fa sapere: presenteremo un emendamento proprio oggi contro la reiterabilità dello scudo. In commissione, se saranno riaperti i termini, e Vizzini ha già detto che saranno riaperti i termini, stiamo preparando anche altre correzioni. Dunque, sulla reiterabilità è il tema dello scontro. Ma d'altronde Fini l'ha detto: sulla giustizia c'è il rischio della crisi, e Berlusconi prosegue in questa strategia del mordersi la lingua. Sul Corriere viene definita anche la strategia del sorriso. Eccola qua, il Premier resiste, non mi farà perdere la pazienza. Pagina 5, la strategia del sorriso di Berlusconi. È già stata ribattezzata così, è la linea Gianni Letta. Lui in privato pare che dica vuole logorarci a fuoco lento, farci cadere di schianto per formare un governo tecnico. Lui è Fini ovviamente, però poi sta in silenzio. E attenzione al portavoce Paolo Bonaiuti che avverte, bisogna sempre temere il leone che sta pacifico. Anche su Repubblica il retroscena di Francesco Bei è questo: il Cavaliere vede la trappola, il radar di Berlusconi vede la sagoma del governo tecnico che sta diventando sempre più nitida, però Berlusconi per il momento sta in silenzio. In realtà c'è una grana giudiziaria che si profila all'orizzonte, questo secondo il Fatto Quotidiano. Solo il Fatto Quotidiano pubblica questa notizia a pagina 2 con Gianni Barbacetto. Una grana giudiziaria che secondo Barbacetto potrebbe davvero giustificare il Silvio Berlusconi da qualche giorno nervoso e preoccupato. Attenzione al titolo perché è esplosivo. Io e Berlusconi, una ragazza accusa. Chi gli sta vicino racconta che Silvio Berlusconi è da qualche giorno nervoso e preoccupato, non solo per la vicenda di politica, questo racconta Gianni Barbacetto, ma perché una ragazza appena diciottenne sta raccontando di aver avuto incontri con lui quando era ancora minorenne. Una vicenda spinosa, fa i nomi di protagonisti e comprimari. La ragazza, che chiameremo Ruby, è di nazionalità marocchina. In questo momento sarebbe ospite di una comunità protetta. Fino a qualche tempo fa, racconta il Fatto, faceva parte del giro di Lele Mora. Ruby era in contatto con Mora, faceva serate in discoteca, poi avrebbe avuto il contatto o i contatti ravvicinati con Silvio Berlusconi. Notate i molti condizionali, no? Secondo quanto risulta al Fatto, i suoi racconti sono ora al vaglio della Procura di Milano, dichiarazioni tutte da verificare, potrebbe essere un tentativo di ricatto, una trappola, una storia inquinata, oppure un confuso tentativo di farsi ascoltare lanciato da una ragazza finita in una storia più grande di lei. Per ora, in questa vicenda scivolosa, di certo c'è il fatto che una ragazza sta parlando. Se poi quello che racconta Ruby fosse vero, racconta il Fatto, sarebbe da ipotizzare vari reati, insomma, rapporti sessuali con minorenne, il reato di violenza sessuale e così via. Insomma, io e Berlusconi, una ragazza accusa. Il Fatto, certo, mettendo tanti condizionali, ma pone una storia giudiziaria che vedremo, insomma, se nei prossimi giorni avrà degli sviluppi. Certo, una storia giudiziaria che invece viene lanciata da tutti i giornali, e la leggo da Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, vale a dire i due cronisti di giudiziaria principe del Corriere della Sera, è quella che coinvolge invece il fratello di Silvio Berlusconi. Nastro di Fassino, nuove accuse a Paolo Berlusconi. La vicenda è quella di qualche anno fa, quando sul giornale ci fu la pubblicazione di Fassino e della famosa intercettazione telefonata in cui diceva Giovanni Consorte: allora abbiamo una banca. Erano i giorni della scalata di Unipol a BNL. Ora il problema è che quella telefonata non era agli atti, esisteva esclusivamente come file audio da parte della società che si chiama Research Control System, RCS, che faceva le intercettazioni per la Procura di Milano. Ebbene, ora il titolare di quell'agenzia, Roberto Raffaelli, amministratore di questa società, per la prima volta ha ammesso, dopo aver negato per anni, dopo aver detto ero andato ad Arcore solo per fare gli auguri di Natale a Berlusconi, invece ora confessa: per conto della Procura di Milano facevo le intercettazioni e portai io nella villa di Arcore a Silvio e Paolo Berlusconi il computer con l'audio di quella telefonata del 18 luglio 2005, che poi il giornale pubblicò una settimana dopo, il 31 dicembre del 2005. Raffaelli oggi, raccontano Ferrarella e Guastella, Raffaelli aggiunge tonalità fantozziane a quella visita natalizia. Pare che in questa prima visita il computer portato ad Arcore ebbe difficoltà di accensione fino a impallarsi. Il tempo trascorso finì così per annoiare il presidente del Consiglio, che si sarebbe perfino appisolato, mentre Paolo Berlusconi avrebbe rinviato la questione. A distanza di qualche... quindi quella prima volta non andò a buon frutto. A distanza di qualche giorno, il fratello del Premier chiese a Raffaelli se fosse possibile ottenere una copia del contenuto del computer, richiesta che Raffaelli afferma di aver esaudito spedendo per posta in forma anonima alla sede del giornale una chiavetta informatica con l'audio di quella telefonata che poi fu pubblicata. Nastro di Fassino, nuove accuse a Paolo Berlusconi, lo trovate sul Corriere ma anche su Repubblica, insomma sulla Stampa, su tutti i giornali. Insomma, questa è la vicenda giudiziaria e le vicende giustizia, insomma sul lato della giustizia davvero, come dice Fini, si rischia grosso. C'è da parlare anche di economia, perché è ancora davvero molto forte l'eco delle polemiche dopo le dichiarazioni di Marchionne, l'amministratore delegato della Fiat. Marchionne divide la politica, pagina 3 del Sole 24 Ore. Paolo Bricco racconta un po' tutte le varie reazioni, Fini che attacca dicendo dimostra di essere più canadese che italiano, Bondi e Casini lo difendono, anche Brunetta lo difende, Bersani sta coi lavoratori, Bonanni dice ha colto nel segno, mentre la FIOM ovviamente lo critica. Tra l'altro il giorno dopo del numero 1 del Lingotto c'è questo retroscena, pagina 3 del Sole, con la presenza di Fiat in Italia che non è in discussione, avrebbero osservato ieri sia Marchionne che John Elkann. Chiunque dica queste cose, compresa la terza carica dello Stato, non dice il vero. Ci sono tantissimi commenti sui giornali, il più duro è Furio Colombo in prima pagina del Fatto, Fiat modello antipatia, una profonda antipatia emanata durante i 14 minuti di presenza e monologo di Sergio Marchionne, quando dice tre operai per riferirsi con tutto il suo peso ai tre di Melfi, Ragozzino, Pignatelli, La Morte, e ti mostra le dita, cioè quei tre operai che terrebbero in scacco la Fiat, la sua ripulsione è netta, capisci subito che dura oltre le 20 ore di lavoro al giorno, che sono per lui un dovere, sibila sottovoce. Insomma, si tratta, secondo Furio Colombo, di una trovata contabile per umiliare gli operai italiani. Di altro tenore, l'editoriale in prima pagina di Guido Gentili del Sole 24 Ore, Torino Italia, che tempo farà ora? Insomma, con quella frase, senza l'Italia la Fiat andrebbe meglio, dice Guido Gentili, voleva esprimere Marchionne con questa frase con chiarezza ciò che pensa, ciò che risulta dalla constatazione dei numeri, questa volta più ruvidi che rotondi. I numeri dicono che la Fiat ha totalizzato nei primi 9 mesi del 2010 2 miliardi di euro di utili, di cui neanche uno proviene dall'Italia. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà e da qui si deve partire. E tra l'altro ne parlerà Oscar Giannino alle 9 e dunque vi rimando a Oscar Giannino. C'è in prima pagina del Manifesto un Vauro come sempre graffiante la sua vignetta, c'è Marchionne che come al Lingotto, come a Terzigno, Marchionne che brucia il tricolore, il traffico. In primo piano. Maroni, cercano il morto, giù le armi o reagiremo. È la vicenda dei rifiuti, la vicenda della polemica sui rifiuti a Napoli che ancora la fa da principe per quel che riguarda le notizie di cronaca che trovate sui giornali. Tra l'altro il Corriere della Sera mette a pagina 15 quella con Fiorenza Sarzanini che sarebbe la scelta, la misura estrema scelta dal Viminale. Pronta la soluzione estrema, arresto per chi sta nella rotonda. C'è una rotonda a Terzigno dove c'è un assembramento quotidiano da parte di chi si oppone all'apertura di una nuova discarica. La misura estrema, quella che tutti sperano di non dover prendere, è proprio un'ordinanza che imponga il divieto di assembramento nella rotonda di Terzigno. Ne parla a pagina 15 il Corriere della Sera. E dunque la situazione dei rifiuti, che è una situazione che rimane una situazione difficile. Io vorrei fare qualche segnalazione di cronaca. La prima la troviamo sul Messaggero, il Messaggero la mette in prima pagina. Morto per denutrizione a Regina Coeli, indagati medici e infermieri. E il Messaggero tra l'altro la dipinge così, come un altro caso Cucchi. Si tratta di Simone La Penna, aveva 32 anni, ora c'è un'inchiesta che mette 7 persone sotto le indagini. E un commento di Massimo Martinelli, che è il commentatore di Giudiziaria, intollerabile. Questo è il titolo in prima pagina. C'eravamo illusi che la dolorosa vicenda di Stefano Cucchi sarebbe servita a qualcosa. Avevamo sperato che quel volto tumefatto, gli occhi semichiusi, il suo corpo martoriato sarebbero diventati un manifesto per ricordare e riaffermare con forza il diritto alla dignità personale di tutti coloro che temporaneamente perdono la libertà. Non sapevamo ancora che mentre Cucchi moriva, un altro ragazzo, Simone La Penna, suo coetaneo con gli stessi problemi di assuefazione agli stupefacenti, stava percorrendo un calvario identico. Ed eccolo dunque a pagina 9 il nuovo caso che potrebbe profilarsi come un nuovo caso Cucchi. Martina Di Berardino racconta la vicenda di Simone La Penna, ragazzo che era in arresto per detenzione di stupefacenti e per il quale ora la Procura di Roma ha acceso i fari indagando 7 persone tra medici e infermieri del carcere di Regina Coeli, tutti indagati per omicidio colposo. Era il 27 gennaio del 2009 quando venne trasferito Simone La Penna dalla sua abitazione nella casa circondariale di Viterbo, poi tutta l'odissea che lo porta nel giugno del 2009 al trasferimento all'ospedale Pertini, dove restò 2 giorni fino a che il 26 novembre, esattamente un anno fa, alle 8 di mattina, si ritrovarono gli infermieri a praticare le operazioni di rianimazione sul corpo di Simone, che morì dopo 10 minuti, dopo aver perso 20 kg nel giro di un mese. Indagati in 7 tra medici e infermieri, questo dice il Messaggero. Vado invece sulla Stampa, pagina 22, Nicolò Zancan racconta la incredibile vicenda del campo nomadi di strada dell'aeroporto a Torino. C'è anche in prima pagina: nel campo nomadi un muro per separare cristiani e musulmani. In uno dei campi nomadi di Torino, i Rom hanno costruito un muro di ferro, una cancellata, perché? Per dividere i bimbi cristiani da quelli musulmani. Quelli di là sono sporchi, hanno il moccolo al naso. Si infiamma, insomma, la polemica tra serbi e bosniaci. Nicolò Zancan va a visitare questo campo nomadi, dove da una parte ci sono serbi e croati ortodossi, dall'altra rom, bosniaci, musulmani. Una guerra che tutti i giorni si concentra sul pulmino da far prendere i bimbi per andare a scuola. Lo combattono gli studenti delle medie, delle elementari, bambini di 7 anni, insulti, pugni, offese, prese in giro, minacce. Chi perde resta al campo a giocare e non prende l'autobus. Ogni giorno la stessa scena, e quando chiedi perché ricevi una raffica di risposte contrapposte: perché loro sono sporchi, non sanno vivere da italiani. Guarda me invece, ciao fratello. E vabbè, e poi un forza Mussolini. Insomma, nel campo nomadi un muro per dividere serbi e bosniaci. Chiudo con questa segnalazione la rassegna stampa ricordando il nostro sondaggio, che si lega molto anche all'articolo di Sergio Rizzo oggi sul Corriere: camere paralizzate in un anno, 10 leggi. C'è chi rilancia, o ha provato a rilanciare, l'abolizione dei vitalizi per i parlamentari. Il risultato è stato che è stato tutto bocciato alla Camera, lo ha fatto anche il Presidente della Regione Toscana, che sarà il nostro ospite alle 8.30. Vi chiediamo, secondo voi è una scelta demagogica oppure no? Votate su radio24.it, ora il GR. 24 mattino. L'intervista. E allora ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.20 minuti. Il protagonista della nostra intervista è il senatore Carlo Vizzini, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Senatore, buongiorno. Buongiorno a voi. Dove oggi in Commissione riprendono i lavori sul lodo Alfano. Senta, presidente, il nodo della reiterabilità è quello che fa più discutere politicamente. Il ministro Alfano dice non è un nodo decisivo per la legge. Lei è d'accordo? Guardi, io ho apertamente detto che ritenevo utile che si aprisse un tavolo di confronto con i nostri alleati del FLI, che hanno posto questo problema, partendo anche da un dato, che il lodo Alfano, quello che era stato dichiarato incostituzionale, non prevedeva la reiterabilità. C'è un dato particolare di questa vicenda, è una legge che entrerà in vigore dopo che sarà stata approvata 4 volte. Dai 2 rami del Parlamento, 2 volte al Senato e 2 volte alla Camera, e che sarà sottoposta a un referendum, il che significa che entrerà sostanzialmente in vigore nei primi mesi del 2012. L'unico vero problema è come collegare questo spezzone di legislatura di un anno con quella successiva, perché la non reiterabilità è un principio che si può condividere, ma su una legge che poi in questa legislatura avrà una validità di un anno, mi pare una ristrettezza oggettiva. Questo è un tema interessante perché, Presidente, ci sono due indiscrezioni oggi sulla stampa che vorrei, sulla stampa e Repubblica, che vorrei farle commentare. La prima è proprio, si lega a quello che lei ha detto adesso. Sul secondo Repubblica, siccome la legge quando verrà approvata varrà per uno scorcio di legislatura, lei avrebbe già previsto una norma transitoria che prevede chi ne fruisce ora per questo scorcio ne può fruire anche per la prossima legislatura. Le pare un'indiscrezione credibile? Le pare una previsione, che il fatto che io abbia già previsto questo è assolutamente infondato. Allo studio, diciamo. Io pongo il problema politico all'interno del gruppo al quale appartengo e poi insieme si prenderà una determinazione. Anzi, io farò di più, darò uno spazio di tempo a tutti i gruppi parlamentari, se così ci metteremo d'accordo questo primo pomeriggio in commissione, perché ognuno possa riflettere e presentare degli emendamenti, ma credo che sia il tempo non degli emendamenti del relatore, ma degli emendamenti dei gruppi politici che si assumono la responsabilità politica di un passaggio che è molto delicato. In ogni caso lei dice, quello che ha detto all'inizio, una legge che entrasse in vigore vale per 6 mesi, un anno, e poi è un po' un vulnus, no? Questo dovrebbe... Sì, io condivido il principio, diciamo, non mi pare, mi pare corretto parlare della non reiterabilità, ma quando la facemmo con Lodolfano ricordo che eravamo nel primo anno della legislatura. Sì, sì. Un'altra indiscrezione è questa, apparsa invece sulla stampa, per far partire quella l'idea di far partire Lodolfano dalla prossima legislatura, tanto una copertura giudiziaria per i membri del governo, anche per il Presidente del Consiglio, c'è già nel legittimo impedimento in questo caso. Legittimo impedimento scade a ottobre del 2011, nella migliore delle ipotesi, perché prevede che duri sino a quando non c'è un provvedimento costituzionale e in ogni caso non più di 18 mesi. 18 mesi scadono a ottobre del 2011 e quindi questo mi discorso... pare più una trappola che non un rimedio. Non vale. Senta, noi stiamo discutendo di tecnicismi, se vuole, ma il fatto che il lodo Alfano serva, lei è d'accordo politicamente? Perché molti italiani ne contestano proprio alla base la sua... Io però vorrei dirle, vorrei davvero che molti italiani, che tutti gli italiani che commentano sapessero quello di cui ci stiamo occupando. Per esempio, io ho letto una dichiarazione del segretario del secondo partito italiano, che è il Partito Democratico, che ha detto lo vogliono assolvere in Parlamento. Qui siamo di fronte esclusivamente alla sospensione temporanea di un processo per la durata di una carica istituzionale, per impedire che chi deve accudire a quel livello alla cosa pubblica debba contemporaneamente difendersi in un processo. Non entriamo nel merito della colpevolezza o dell'innocenza, sì, del soggetto. Si sospendono solo. Non impediamo le indagini preliminari. Arrivato al momento del rinvio a giudizio, cioè quando il soggetto diventa imputato, si sospendono i termini di prescrizione, si sospende il processo, si garantiscono i diritti delle parti civili e si viene processati quando finisce la carica. Il Presidente della Repubblica Francese Chirac viene processato dopo che è stato Presidente della Repubblica, ha iniziato un processo per reati commessi quando era sindaco di Parigi. Sì, sì, quindi lei dice è solo una sospensione. Qualcuno fa notare, insomma, che però reiterando nel caso del Presidente... Infatti siamo disponibili a parlare, certo, se uno avesse gli incarichi istituzionali per tutta la vita non sarebbe processato mai. E questo è il vulnus politico. Senta, ma siamo persone ragionevoli, di questo si può parlare. L'importante è dire alla gente la verità. La storia della retroattività è un'altra grande falsità che ha preso i titoli dei giornali. Che cos'è la retroattività? Noi stiamo parlando della sospensione del processo, non di quando è stato commesso. No, ma infatti, ma quella della retroattività è un falso problema. O si fa Lodolfano o non si fa Lodolfano. No, vabbè, ma questo ogni tanto anche noi giornalisti cadiamo in queste cose. Senta, le chiedo per concludere, il presidente Napolitano ha fatto dei rilievi che oggi verranno letti da lei nella lettera in apertura della commissione. Però Berlusconi pare che dica: ma a questo punto non serve pure a me. Ma che vuol dire? Cioè che stiamo... non l'ho chiesto io. Cioè, questo sarebbe l'assurdo. Insomma, stiamo scherzando, abbiamo scherzato Berlusconi per 2 anni. Intanto fa riferimento a un'iniziativa che è parlamentare, non del governo, e quindi i gruppi parlamentari hanno anche una loro autonomia. Poi probabilmente Berlusconi è stanco di un fatto, che quando si parla degli altri si parla sempre di una funzione, quando si parla della funzione che ricopre lui si parla sempre di Berlusconi come persona, e questo oggettivamente è una forzatura che viene sempre portata avanti per dare un'immagine negativa del Presidente del Consiglio di fronte all'opinione pubblica. Noi stiamo parlando non di Berlusconi, ma della funzione del Presidente del Consiglio, così come non ci permettiamo di parlare di Napolitano in quanto tale, ma della funzione di Presidente della Repubblica. Berlusconi è un uomo che è intelligente, che questa cosa la coglie, e poi soprattutto Berlusconi è un uomo che è abituato ad operare rapidamente, e pensava che questa cosa si potesse fare con 3 righe, invece in Italia per scrivere una legge ci vogliono 300 righe al posto di 3 righe. Mi dia un'ultima risposta a flash: secondo lei, come dice Fini, sulla giustizia si rischia la crisi? Che sulla giustizia si rischia la crisi in senso assoluto io lo dissi già un mese fa. Devo dire però che oggi ci sono le condizioni sia sulla grande riforma sia sul lodo per evitare che ciò avvenga. Occorre soltanto lealtà, che non ci siano ipocrisie e che nessuno si chiuda a riccio sulle proprie convinzioni. La ringrazio, vedremo ovviamente come andrà oggi la giornata. Grazie per essere stato con noi, senatore Carlo Vizzini, del Popolo della Libertà e presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato. Oggi pomeriggio, credo alle 2:30, riparte lì la discussione sul lodo Alfano. Ci fermiamo per pubblicità e meteo. Il nostro sondaggio torna a parlare di vitalizi parlamentari e dei politici, le pensioni dei politici, che qualcuno insiste, dice, vorrebbe abolire. E lo ha chiesto ancora con forza il presidente della Regione Toscana, lo ha chiesto un rappresentante dell'Italia dei Valori con scarsissimo successo in una votazione un po' bulgara al Parlamento. Noi vi chiediamo, è una richiesta secondo voi demagogica? Ne parleremo tra poco. Votate su radio24.it o chiamateci 800 24 0024. 24 mattino. Ed eccoci qua, allora se volete intervenire in diretta 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. C'è una voce che i detrattori della cosiddetta casta dei politici trova particolarmente fastidiosa, quella dei vitalizi. Basta una legislatura, 5 anni, e poi si ha un vitalizio. Questo vale anche per le regioni, insomma è il tema nel nostro sondaggio, perché c'è qualcuno che davvero pare intenzionato a dire basta. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? La domanda che vi poniamo su radio24.it è: secondo voi quella di abolire i vitalizi dei politici è una proposta demagogica oppure no? Per ora prevalgono i no con un 75%, ma intanto voglio chiederlo al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi del Partito Democratico. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci, anche lei non ha detto basta vitalizi, in che senso? Credo che sia un istituto ormai vecchio, insomma. Poteva essere in qualche modo un riconoscimento nella prima fase della Repubblica, quando a certi incarichi accedevano anche persone da condizioni umili, con difficoltà per la pensione. Insomma, un riconoscimento onorifico, come dice anche la parola stessa. Adesso, con i cambiamenti che ci sono stati sul versante pensionistico, credo che stia diventando, al di là anche dei costi che ha per la pubblica amministrazione, una modalità un po' urticante. Dice, per esempio, il servizio alla Repubblica. Uno che non è più assessore, uno che è più consigliere, uno che non è più presidente della regione, quanto prende di vitalizio? Ma in Regione Toscana prende abbastanza poco. A noi il vitalizio scatta mi sembra dopo 30 mesi, ma in Regione Toscana siamo stabili, quindi facciamo sempre almeno 5 anni. E scatta dell'età di 60 anni, mi sembra il 65% dello stipendio, sono 1.400 euro al mese. Ci sono regioni che fanno, diciamo, molto peggio o molto meglio a seconda dei punti di vista, insomma, che veleggiano verso 3.000 euro, altre verso 4.000, altre verso 5.000. Ora, io dico questo, insomma, una persona che viene retribuita per un incarico pubblico in termini europei, diciamo 5.000, 6.000, 7.000 euro, come tocca anche a me, dovrebbe per il periodo in cui svolge questo incarico avere un contributo rapportato a quel tipo di stipendio che percepisce. Sì. e quindi a mio parere dovremmo andare in una soluzione in cui il vitalizio non è più uno scatto automatico, ma come richiediamo anche, mi sembra, il resto del mondo del lavoro, dovrebbe essere rapportato ad un monte contributivo. Noi già in parte contribuiamo al vitalizio, però per i meccanismi automatici che comporta, la spesa pubblica non è più sostenuta, e quindi deve intervenire. Devono intervenire anche le casse pubbliche. Ma lei, Presidente, è stato un po' duro, ha detto a me del vitalizio in un convegno per i consiglieri non me ne importa proprio nulla, cioè proprio non... Ma sì, insomma, c'è una polemica ora, anche questo dargli al politico comunque a prescindere, noi facciamo molto per risultare urticanti, appunto, se vogliamo usare una parola soft, urticanti, sì, insomma, ci esercitiamo nell'arte di risultare un po' urticanti ai cittadini. Lei pensi, mio padre, per avere una pensione da 1000 euro ha dovuto lavorare 40 anni, insomma. Il politico un po' meno. Ha fatto un altro lavoro diverso dal mio, ma insomma. Un po' meno, no? Ma Presidente, non si deve esagerare. Dopo il vitalizio si può accumulare anche questo. È chiaro, se uno mantiene. Ci sono due aspetti: uno fa il consigliere, poi fa il parlamentare, e poi a partire da 60 anni cumula il vitalizio del consigliere, cumula lo stipendio del parlamentare. Quando cessa di fare il parlamentare, ovviamente cumula vitalizio, stipendio, vitalizio parlamentare, vitalizio regionale. E magari si mantiene anche un terzo lavoro, quindi matura anche una pensione come terzo. Sì, autonomo, poi può addirittura mantenersi anche un terzo lavoro, e qui veramente, insomma, ci sarebbe da rivedere alcune cose, perché mentre il rapporto che ha il consigliere regionale, o se è il lavoratore dipendente, è un rapporto di esclusività, nel senso che non può ricevere altri stipendi da nessuna parte. Pensi che io sono stato nel consiglio d'amministrazione dell'AIFA, e insomma, in quel consiglio, in quanto assessore della Regione Toscana, mi assumeva anche qualche responsabilità in rapporto a decisioni sui medici, sui farmaci, che avrebbero potuto anche avere qualche conseguenza. Tutto quello che ho preso in quel periodo, mi sembra più di 100 milioni di euro, qualcosa del genere, l'ho riversato alla regione. 100.000, voglio sperare, non 100 milioni di euro. Il super Enalotto ha vinto. 100.000 euro. 100.000 euro, no, ma li ho regolarmente dati alla Regione Toscana, alla Regione, perché il mio è un rapporto di esclusività. Allora, Presidente, no, rimanga con noi, perché io voglio salutare due esponenti parlamentari, il senatore Lucio Malan del Popolo della Libertà. Buongiorno, senatore Malan. Buongiorno. Voglio salutare anche l'onorevole Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, che abbiamo letteralmente, credo, sbrandato negli Stati Uniti. Onorevole Borghesi, così appena notte. Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero almeno stia nella costa est, così insomma ci salviamo con un 6 ore di fuso. Onorevole Borghesi, lei ci ha provato in Parlamento, lei, l'Italia dei Valori, no? Il 21 settembre, una proposta di abolire il vitalizio. Com'è andata? Credo, insomma, una votazione bulgara per il no. Assolutamente sì, perché solo i miei colleghi di partito hanno votato a favore, per cui è uscito 22 sì e 498 no. E 5 astenuti, non ho capito uno cosa c'ha da astenersi astenuti su questo. Senta, l'hanno accusato di essere demagogico. Lei che cosa proponeva? Di abolire tout court il vitalizio? No, questa è un'accusa che io respingo e rifiuto, perché in realtà io ho semplicemente proposto di far sì che il parlamentare sia come tutti gli altri lavoratori, e che quindi le somme che ci vengono trattenute tutti i mesi a questo titolo siano destinate all'ente previdenziale che ciascuno di noi ha, oppure se uno non ne ha uno c'è una gestione separata dell'INPS che può provvedere a questo, in modo che poi al 40° anno, come tutti i lavoratori, queste somme vengano conteggiate, per cui se uno ha già anche altri versamenti avrà una pensione più alta, ma comunque correlata ai versamenti che ha fatto, e non con questa cosa scandalosa, perché tenga presente che gli attuali parlamentari hanno bisogno di 5 anni, ma fino al 2006 ne bastavano 2.5, sì, e sì, precedentemente bastava un giorno, ancora peggio, perché c'è qualcuno che in un giorno solo oggi percepisce, sì, per essere stato parlamentare un giorno almeno solo, questo per correttezza bisogna dire è stato abolito. Adesso bisogna fare 5 anni di legislatura piena, non bastano neanche i 2 anni, 6 mesi e un giorno. Onorevole Borghesi, prima di chiedere al senatore Malan quanto sarebbe stato il risparmio a Camera e Senato fosse passata questa sua proposta. Guardi, attualmente alla Camera costa circa 140-150 milioni l'anno e al Senato sono circa 60-70 milioni, quindi complessivamente 200 milioni. 200 milioni l'anno, in una legislatura 1 miliardo di euro. Senatore Malan, è demagogia questa? Beh, guardi, io la metto in un altro modo. Intanto queste proposte hanno una lunga storia, tranne naturalmente questo caso che io non conosco l'onorevole Borghesi, se anche lo conoscessi non è che potrei sapere cosa pensa. Di sicuro però tutti sanno che queste proposte vengono bocciate dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, e per cui si può bella figura a presentarle e a votare a favore. C'è un altro punto che è certo: noi siamo sempre liberi di restituire parte, tutta l'indennità al Senato, c'è anche un conto apposito che serve anche per fare versamenti di beneficenza, come molti di noi hanno versato un'intera mensilità a favore dei terremotati dell'Abruzzo e così via. Sì. Detto questo, io appunto sottolineo che molto è stato fatto, oltre a quello che avete già detto, che si è passati da un giorno a 2 anni e mezzo a 5 anni, anche su più legislature, per cui una sola legislatura può non bastare, e l'ultima non è bastata. Ci sono altri elementi, fino a circa 20 anni fa si poteva arrivare al 100% dell'indennità, a prendere come vitalizio il 100% dell'indennità. Poi si è scesi a 80%, quando io ho iniziato, sono stato eletto per la prima volta in Parlamento, era 80%, ora l'abbiamo ridotta al 60%. Contemporaneamente è stata ridotta anche l'indennità, nel 2006 è stata ridotta del 10%, e a parte questa riduzione non è toccata dal 2003, e per cui è chiaro che... Insomma, piccoli passi però, senatore. Però perché lei dice senatore, tanto, tanto si sa che queste proposte vengono bocciate, quindi fa comodo, ci si fa belli a presentarle. Perché devono essere per forza bocciate? Perché poi lo sono, quello che conta. No, ho capito. Quello che conta sono i fatti, cioè se la mia previsione è già verificata nel caso che abbiamo appena letto. Poi uno può dire sì, certo, io l'ho fatto per avere la maggioranza, e non possiamo smentirli, però sappiamo benissimo qual è la realtà. E quando parliamo di risparmio, dice certamente, abolendo dall'oggi all'indomani questi vitalizi, per cui prendendo anche persone di 80-90 anni che campano di questo, gli togliamo tutto, certo, una cosa che si può anche ipotizzare di fare così. Ci sono persone di 80 anni che campano di questo, cioè ex politici, certo, che campano di questo. Uno che ha fatto il parlamentare per 20-30 anni, si prenderà 8.000 euro di indennità. Un'altra cosa che abbiamo fatto negli ultimi anni è stato quello di abolire la contribuzione gratuita per chi appartiene a altri fondi. Io quando sono entrato in Parlamento c'erano persone, sì, si potrebbero anche fare i nomi, ma è spiacevole, che poi hanno illustrato la Repubblica, che per aver fatto magari per 2 anni il magistrato, per 6 mesi l'insegnante, hanno preso la pensione, oltre a prendere il vitalizio da parlamentari, hanno il vitalizio. È per questo che io dico, almeno si togliesse quello di parlamentare. Comunque riprendiamo da qui dopo le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 79% dice non è demagogia, per il momento votando su Radio24.it vorrei, ma dovete essere concisi, 2 ascoltatori, Domenica da Ravenna, buongiorno, che dice? Buongiorno. Dica. Allora, io dico che è ora proprio di smetterla di occuparsi di problemi inutili. Questo è un argomento che non sarebbe nemmeno da discutere in un momento di crisi come questo. Ma che cosa ci vuole ad eliminare questo vitalizio? Bisogna votare in Parlamento, bisogna votare in Parlamento, e il senatore Malan ci dice la storia dimostra che si è sempre votato contro, Domenica. Perché l'effetto poltrona, purtroppo, ha questo effetto che uno quando ci si è seduto sopra deve rimanere per forza attaccato, indipendentemente da quello che fa, perché ci sono parlamentari che si occupano del niente fresco. L'effetto poltrona, grazie Domenica. Duilio da Frosinone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dottor Milan, volevo solo sapere se noi poveri lavoratori dobbiamo aspettare tanti anni prima delle pensioni, prendere delle pensioni da fame, e questi signori parlamentari che avendo tutti questi privilegi prendono le pensioni dopo i 5 anni diciamo del loro lavoro. A lei immagino che ci sia già la risposta in questa domanda, in questa considerazione. La fa incazzare questa cosa? Che vogliono fare questo. Però è sempre la solita storia. Dicono, ma non fanno mai. Non fanno mai. Va bene, Duilio, la ringrazio. Qui vorrei dal presidente Rossi, da Antonio Borghesi. Presidente Rossi, inizierei da lei. Insomma, il senatore Malan dice ci si fa belli a fare queste proposte, ma tanto si sa già che non passano. Lei, presidente. Ma noi abbiamo fatto già 2 cose, insomma, come regione toscana e come maggioranza di questa regione. Abbiamo ridotto il numero di consiglieri e abbiamo ridotto anche il numero degli assessori. Eravamo 14 assessori, adesso siamo 10 assessori in giunta, eravamo 75 consiglieri, adesso siamo 50 più i candidati presidenti. E insomma, è stata già una bella rivoluzione. Poi ne facciamo un'altra, proprio per dire a quella signora di Ravenna che parliamo anche d'altro. Si sta nella finanziaria regionale che proprio il 28, tra qualche giorno, approveremo, e cioè che negli enti derivati della regione toscana, agenzie, fondazioni, parchi, anziché l'indennità noi metteremo semplicemente il gettone di 30 euro quale risarcimento. Insomma, per non far vivere quelli che vengono definiti i trombati della politica, qualcuno, credo Montezemolo. C'è anche la storia dei trombati della politica. Il Consiglio regionale, con iniziativa dell'Italia dei Valori e del Partito Democratico, ha iniziato anche a discutere del vitalizio. Io credo che non ci sia nulla di demagogico, perché anche nella mia proposta l'obiettivo è togliere i privilegi, non il diritto. Ci dica che lo toglierà in questi 5 anni di legislatura, riuscirà a toglierlo secondo lei? Ma io penso proprio di sì. Adesso dobbiamo approvare la finanziaria, poi alla ripresa i capigruppo del Consiglio regionale della Toscana potranno lavorare su questo, e credo che nel corso dell'anno prossimo senz'altro aggiusteremo questa vicenda. Io vorrei che in questo caso la Toscana riuscisse, come negli altri due che rammentavo, riuscisse a dare insomma il buon esempio, insieme anche ad altre situazioni che indubbiamente ci sono. Però l'idea che si possa stare in politica perché ci sono dei privilegi, come ha sentito, è diventata intollerante. Allora la mia reazione a questo diciamo è molto dura, molto ferma. Per altre ragioni. Lo so, però gli ascoltatori insomma sono un po' il polso del paese. Onorevole Borghesi, vorrei tornare anche da lei. Insomma, il senatore Malan dice effettivamente, insomma, quante possibilità aveva lei quando ha presentato questa proposta Dal 2006 che sono in Parlamento, io dico al senatore Malan e a chi vuole di andare a vedere quali sono le proposte che io ho fatto da allora in avanti, e vedrà che non c'è solo questa, e che tra l'altro, voglio dire, quel poco che si è riusciti a fare è stata anche per la pressione che Italia dei Valori ha fatto sul governo Prodi quando eravamo in maggioranza. Noi continueremo a farlo, abbiamo depositato anche una proposta di legge che coinvolge anche le regioni, perché se si riuscisse a farlo non solo sui parlamentari ma anche sui consiglieri regionali, abbiamo fatto un po' di conti e il risparmio anno sarebbe di 1 miliardo di euro, quindi un fatto consistente. Noi chiederemo come minoranza di portarlo in discussione in commissione e poi in aula, e io continuerò a provarci. Poi se qualcuno vuol farmi il processo alle intenzioni lo faccia pure, ma credo che la gente sia con noi, i cittadini siano con noi, e spero che facciano sentire anche la loro pressione. Vediamo, su questo no, se ne è parlato da un paio d'anni. Senatore Malan, lei non crede che nei suoi discorsi anche ci sia un po' il segno del distacco da quella che è la percezione dell'opinione comune, insomma, di dire ma sì, tanto queste cose non passano, si fanno così per demagogia, per apparire bene? Io Cioè, lei dice qualcosa si è fatto, però insomma abbassare dal 100% all'80% al 60% non è quello che la gente vorrebbe, insomma, con un tratto di penna. Certo, azzeriamo tutto, e per entrare in politica bisogna essere ricchi. D'altra parte, questo è già stato anche accennato prima, che tutto sommato uno che è consigliere regionale, bene o male qualche altro reddito ce l'avrà, benissimo. Poi però ci si lamenta se non c'è l'impegno, se non c'è l'impegno nel proprio lavoro. Guardi, io dico questo, guarda caso in tutti i paesi del mondo chi lavora in politica, chi è impegnato in politica viene pagato. Se vogliamo far credere che il nostro paese sarà tutto pieno di persone oneste che vogliono lavorare gratis solo perché sono in politica, io credo che qualche sospetto lo dei. Il timore che qui sia strapagato, il timore che sia strapagato in Italia, capisce senatore, non pagato, pagato è giusto, no? Guardi, io quando è stata lanciata la proposta, che è stata regolarmente approvata, anche questo voi lo ritenete un piccolo passo, però mi piacerebbe sapere quanti piccoli passi hanno fatto altre categorie di questo genere. Quest'anno abbiamo approvato la riduzione complessiva delle degli emolumenti che vanno ai parlamentari di 1.000 euro netti proprio. Sì, sì. E anche questo naturalmente secondo voi è un piccolo passo, però risparmiare. No, ma certo, le sparate non fanno risparmiare. Non fanno risparmiare. Forse fanno guadagnare qualche voto, ma gli italiani non sono felici. Io ho 20 secondi, devo chiudere, ma vorrei, presidente Rossi, lo so lei l'ha già derubricata la vicenda, ma questa storia del puttaniere a Silvio Berlusconi l'abbiamo chiusa. Che ride, ha dato del puttaniere al presidente del Consiglio. Avrei dovuto, ma insomma, ora non esageriamo, avrei dovuto dire, se si contestualizzano le bestemmie, diciamo, posso appellarmi anch'io alla contestualizzazione. Diciamo che forse avrei dovuto dire fruitore finale, ma insomma era una battuta, niente di particolarmente. Anzi, io penso francamente che i fatti privati sono appunto fatti privati, ed era questo un po' il segno di una risposta forse anche forte che avevo dato ad un attacco delle opposizioni su una lettera anonima. Sì, sì, che era arrivata alla regione. Oggetto di va bene. Relazioni. Ci fermiamo qui, ringrazio tutti, il presidente della Regione Toscana Rossi, l'onorevole Borghesi dell'Italia dei Valori, buonanotte ovviamente negli Stati Uniti, e Lucio Malan, senatore del Popolo della Libertà, con Valeria Coffaro in redazione e Filippa Oreggi in regia. Do la linea a Oscar Giannino, voi ci potete scrivere 24 mattino @radio24.it. A domattina 7:20.